guarda, controlla il mio peso, in lingotti una sola domanda, sarò vendibile. È un mondo di cubi catodici, luci di circhi, fantasmi di sogni caduti e di pessime starlet. Mi chiedo dove sono e scopro che non so se posso dire no, che il prezzo per l'uscita è ritrovarsi fuori, ma comunque sia, io scappo da qui dicendomi che in fondo non ero per niente carnevale. E mi gioco la vita, ma non è vita se ogni mezz'ora passa la pubblicità. Non mi viene da ridere, non è divertente, non era poi così speciale. Non mi viene da ridere, più non sento niente, le luci forti fanno male. Occhio sei vecchio, la ruota non gira un'altra volta. Se perdi un momento non ci sarà più niente qui per te. Ma non ci riesco, non posso, c'è troppo rumore. Non sento più la mente, c'è vento di chiacchiere, paiere.